Alla metà del mese di giugno ancora moltissime le iniziative in calendario per il centenario di San Pio X che culminerà, lo ricordiamo, con la Santa Messa Solenne al Santuario delle Centrole sabato 23 agosto in serata, Santa Messa che sarà presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin. Bentrovati ancora da Mirko Cavallini nel nostro consueto appuntamento settimanale con i cent'anni appunto di San Pio X. Diversi appuntamenti, dicevamo, in programma passato, non con purtroppo una defezione, l'evento di Riese Pio X di sabato 14 i The Sun per un malessere appunto del cantante non si sono potuti esibire. Rimangono moltissimi appuntamenti in calendario a Salzano, che è stata la prima parrocchia da parroco, anche l'unica a dire il vero, per Don Giuseppe Sarto. Il prossimo appuntamento è venerdì 20 alle ore 21 con Rossi Bindi, deputato della Repubblica e attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia. Rossi Bindi interverrà sul tema la politica come servizio alla collettività. Oggi è ancora possibile. Il venerdì successivo, il 27, sempre in filanda a Salzano, ci sarà il presidente della comunità di Sant'Egidio, il professor Marco Impagliazzo, docente di storia contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia. Il tema su cui interverrà è i cittadini e le povertà, nuovi orizzonti di coscienza civica e di impegno. Il 3 luglio, che invece sarà un giovedì alle 21, sempre in filanda, Don Flavio Dalla Vecchia, docente di Sacra Scrittura all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, interverrà sul tema trasmettere la fede ai giovani, una sfida per la Chiesa tra insegnamento e testimonianza. Ricordiamo che la parrocchia di Salzano poi sarà in pellegrinaggio a Roma dal 4 al 6 di luglio, che anche la diocesi di Treviso ha organizzato un pellegrinaggio che sarà dall'8 al 10 di settembre, che ci sono ancora alcune settimane per le iscrizioni presso l'ufficio pellegrinaggi diocesano. Il 4 agosto, guardiamo già avanti, ma visto che l'estate è già iniziata, è un appuntamento importante e tradizionale per la storia di San Pio X, ci sarà il pellegrinaggio in Cima Grappa in ricordo dell'ascesa che Giuseppe Sarto, allora patriarca di Venezia, compì nell'anno 1901 e il giorno 4 di agosto. Il giorno 23, che sarà come detto giorno della Santa Messa Solenne a Riese al Santuario delle Centrole, a Salzano invece nella Casa delle Comunità alle 18 sarà inaugurata la mostra Pio X dal Papato alla Santità a cura di Stefano Bolgan. Mostra che sarà aperta poi il giorno 24 e anche il 25 di agosto. Il 24, che è la domenica, nella chiesa arcipretale di Salzano ci sarà l'annullo speciale delle Poste Italiane su cartolina raffigurante l'opera vincitrice del concorso di pittura che si era chiuso con il mese di maggio, e a seguire la celebrazione eucaristica col vescovo di Treviso Monsignor Gardin e l'inaugurazione dell'opera vincitrice alla chiesa di Salzano, questo concorso di pittura di cui avevamo parlato già nei mesi scorsi. Ricordiamo che a Salzano c'è un museo dedicato a San Pio X per ricordare i suoi anni di parroco, 8 anni dal 1867 al 1875. La maggior parte degli oggetti esposti ricordano proprio la presenza di Don Giuseppe nella comunità salzanese, ad esempio registri anagrafici dove annotava i momenti più importanti della vita di ciascuno e ricordava le persone scomparse con singolare delicatezza d'animo. Importantissimi sono i due quaderni dove gli scrisse la prima versione del Catechismo Universale della Chiesa Cattolica per aiutare i bambini di Salzano a comprendere i cardini della fede cristiana. Quello che lui sperimentò appunto a Salzano poi divenne valido per tutta la Chiesa nel mondo. Poi ci sono arredi, strumenti per il culto, paramenti e messali. C'è anche il suo letto fatto con legno di salice. Una povertà che traspare anche dai registri economici. Era difficile far quadrare i conti di una parrocchia che Don Giuseppe voleva sempre fosse vicina ai più bisognosi. Dunque un'occasione per visitare la parrocchia di Salzano, il museo nei prossimi giorni, ma poi è permanentemente aperto da alcuni anni. Segnaliamo un appuntamento che sarà invece a Oderzo, quindi fuori diocesi di Treviso, giovedì 26 giugno dalle ore 20 nella sala consiliare familiare del municipio. Il tema è la responsabilità sociale dell'impresa. Interverranno il professor Lino Sartori, Arturo Miotto, direttore della BCC di Monastere e del Sile, Alberto Bacichetto, che è presidente della cooperativa sociale Il Sestante, Costantino Moret, direttore della BCC Prealpi di Oderzo. Moderatore sarà il professor Alessandro Minello dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Segnaliamo un altro appuntamento anche per luglio, venerdì 10 a Castelfranco al Teatro Accademico, a cura dell'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Treviso, comunità di lavoro e impresa, la partecipazione del lavoratore nella gestione dell'impresa. Sono tantissime le iniziative che da qui ad agosto appunto culmineranno, ce ne sono di culturali, di musicali, poi con il prossimo autunno ci sarà anche la chiusura ufficiale di questo anno centenario che già è iniziato con le prime iniziative nel corso del 2013. Ricordiamo che la nostra rubrica è sempre disponibile in podcast sul sito bluradioveneto.it.